fica mal com Deus. Quem não sabe dar, fica mal comigo. Quem não sabe a tutte, e alle 22:14 continuiamo il martedì autogestito da femministe e lesbiche del 20 marzo. A quest'ora ci dovevano essere quando eravamo pelose, ma per voi che ci seguite, Federica lavorava e quindi non siamo potute andare in onda insieme. Io non ho voluto rinunciare perché avevo voglia di stare un po' ai microfoni e ho deciso però di farvi una puntata un po' differente. E questa puntata sarà una puntata dedicata a tutte le canzoni che nei film vengono cantate da delle donne. E se avete voglia di aiutarmi, sarò contentissima di mettervi le canzoni che vi hanno colpito di più e che vi sono piaciute di più. I miei recapiti sono 06 49 17 50 oppure l'email mfla@ondarossa.info. E intanto iniziamo la nostra trasmissione con Moon River, da colazione da Tiffany, Audrey Hepburn. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. The same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. What you doing? Writing. E questa era dedicata a Francesca che ce l'ha suggerita e così questa sarà la puntata di oggi. Intanto continuiamo con un'altra canzone che è sempre di una grande interprete ed è di un film su Edith Piaf del 2007 e l'attrice è Marion Cotillard che canta questa canzone. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, j'ai volé. quand vous passiez hier. Titine, vous n'étiez pas peu fière d'âme. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez de beaux rôles. On aurait dit le roi. Et je ne dis rien, monsieur. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, elle était belle. Come avete potuto sentire, alcune canzoni sono intervallate dalle parole del film, perché è proprio da lì che le prendiamo, e volevamo continuare ad omaggiare le grandi donne del cinema e che ci hanno anche allietato con le loro canzoni, e questa è, per tornare qui a Roma, Anna Magnani. Che giornata. Si rimedia una lira per Roma. Ma che? Se spendono le lire. Quante macchine venivano la sera. Quanta gente fu affacciata a stare in ghiera. Quanta folla di maschiette e de gagà. Quante radio nelle macchine a suonare, non scendevano le coppie innamorate, se ne stavano abbracciate a pomiciare, l'erborista gli portava la guantiera, con la birra e col caffè che allora c'era. Ogni topolino mi pareva un separé, ogni mazzolino a rimediavo lire tre, ci scagliavo sempre specialmente coi taxi, con le macchine CD, sempre a tentar pizzardone, che a cavallo era imponente come un re. La terrazza era un salotto ed ogni sera mi pareva una stellata bomboniera. Mo la gente della meglio società resta a casa e gioca al bridge o al baccarà. E quell'uomo che puntava er canocchiale, poveraccio, puro lui, mo sai che fa? Non potendo a rimedia col firmamento, resta a casa e s'accarezza lo strumento. Ma che luna, ma che luna c'è stasera. Veder mondo, chi s'affaccia a stare in ghiera, da San Pietro all'altre cupole laggiù, fino al mare più lontano sempre più, che mi importa se quassù non c'è nessuno, che mi importa se non trovo da scagliare. Mosti fiori li regalo a Roma bella, che li porti ad un soldato in sentinella. E questa era Anna Magnani, e per movimentare un po' la serata ci spostiamo al 1972 in un film dal titolo Cabaret, interpretato da Liza Minnelli. International, Sensation, Fräulein Sally Bowles! What good is sitting alone in your room? Come hear the music play.

siempre en la mirada y errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. E dopo Penelope Cruz, in questa versione Estrella Montrella, passiamo a Velvet, a Blue Velvet con Mysteries of Love. Dopo questa atmosfera così suggestiva, misteriosa e romantica, solo per la cronaca dico che Estrella Morente ha prestato la voce a Penelope Cruz nel film Volver. E vi ricordo che siamo nel martedì autogestito da femministe e lesbiche, che potete contattarmi per dirmi le vostre canzoni o per suggerirmi qualcosa sia al numero di telefono 06 49 17 50 che via email all'mfla@ondarossa.info. E intanto, per ravvivare un po' la serata, ci sentiamo Chicago di Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger. Ladies and gentlemen, the Chicago Theater is proud to announce a first. The first time anywhere there's been an act of this nature. Not only one little lady, but two. You've read about them in the papers, and now here they are, Chicago's own Killer Dillers, those scintillating sinners, Roxy Hart and Val McKelly. You can like the life you're living. You can live the life you like. You can even marry Harry, but mess around with Ike, and that's good, isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it? But nothing stays. In 50 years or so, it's gonna change, you know. But oh, it's heaven. Now what? Pick up the pace. Let's make the parties longer. Let's make the skirts shorter. Let's all go to hell in a fast car and keep it hot.

Passiamo a Silvana Mangano facendo sempre e comunque un viaggio indietro nel tempo, tanto che arriviamo al 1951. Devo dire che per me questa puntata è particolarmente piacevole perché ho anche la possibilità di guardare i video che a voi faccio soltanto ascoltare e Silvana Mangano era veramente bellissima. Questa era nel 1951 appunto in un film di Alberto Lattuada che era Anna e diciamo che torniamo un po' non troppo ai giorni nostri perché è ancora un film del 95 però ci riavviciniamo un po' alla contemporaneità e Juliette Lewis canta una memorabile versione di I Can Hardly nello splendido e inquietante film Strange Days. Mm-hmm. E adesso ascoltiamo Cate Blanchett nel film Banditi. L'ha investito. Mi dispiace farvi sentire soltanto dei pezzi delle canzoni, ma mi fa piacere farveli sentire cantate dalle attrici o comunque delle canzoni che mi sono particolarmente piaciute. E invece questa volta la potrete ascoltare tutta, perché lei è una cantante nonché attrice in questo film. Il film è Dancing in the Dark, lei è Björk e la canzone è I've Seen It All. What is there to see? I've seen it all. I have seen the trees. I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend. That were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all, there is no more to see. Dance and dance, seen elephants, kings or Peru. I'm happy to say I have better to do. What about China? Have you seen the Great Wall? All walls are great if the roof doesn't fall. And the man you will marry, the home you will share. To be honest, I really don't care. As high on my very first day. Your grandson's hand as he plays with your head. To be honest, I really don't care. Scusate, ma questo film io lo adoro, anche se la canzone ammetto che era abbastanza triste, e quindi passiamo a qualcosa almeno nella tematica un po' più allegra, che è una canzone di Christina Aguilera tratta dal film Burlesque, dove lei recita insieme a Cher. To tonight, I felt a man. E io pensavo che le canzoni non sarebbero bastate, invece alla fine sono stata anche costretta a togliere qualcosa, perché anche per questa sera si sono fatte le 23, il martedì autogestito da femministe e lesbiche chiude qui e ci vediamo martedì prossimo sempre dalle 17 alle 23, e invece noi quando eravamo pelose fra due martedì vi aspettiamo, e come finale per questa trasmissione Priscilla, la regina del deserto. Ladies and gentlemen, Lazarus Casino of Alice Springs presents Miss Mitzi Del Bra, Miss Felicia Jollygoodfellow, and Miss Bernadette Bassinger, the sisters of the Simpson Desert.